che mi guarda, il nostro ospite di stasera, che è un ritorno da una precedente edizione di Basement Records, in mezzo a voi, il Nero! Bentornato, eh? Bentornato e grazie per aver portato questa nuova trenata di 45 giri insieme a te. Mi ricordo che avevi trovato questa cassetta in cantina dai genitori. Sì, ora siamo quasi alla fine ormai dei vari dischetti. Alla fine ce n'hai un botto. Ce n'è un po', però la selezione diventa sempre più difficile. Però oggi anche perché c'è Claudio Villa in tripla copia, vero? Capito? C'è Claudio Villa abbondano. Però oggi proviamo a fare un po' più trescione, con sorprese più moderne nel mezzo o fine mezzo. No, non svelare così le sorprese, lo ascolteranno, però come sempre prima di perderci in mille discorsi adempiamo al dovere e ricordiamo gli Wombat indirizzi per mettersi in contatto con noi, e il sito come sempre è wombat.noblogs.org. La frequenza sulle onde medie della zona di Firenze è sempre 1359 sul vostro autoradio per ascoltarci imbottigliati nel traffico di Firenze. La nostra mail, mandateci le mail, infamateci, consigli, complimenti, suggerimenti, è sempre postawombat@insiberia.net. E siccome non siamo così anziani come si dice, ma anche noi siamo parecchio social, allora abbiamo anche Twitter e Facebook, nel caso tu non lo sapessi, Nero, ma abbiamo anche una pagina su Twitter e una su Facebook. E Twitter è twitter.com/radiowombatfi e facebook.com/radiowombatfirenze. Stanghetta nel mezzo tra radio e Wombat. Sì, alta. Ma tanto anche se non la mettono, lo trova lo stesso. Non la dico mai, però per i puntigliosi come il nostro ospite di stasera, magari sì, metteteci anche sto meno, sta lineetta, metteteci quello che vi pare. L'importante è che scriviate Radio Wombat Firenze. Ma riraccontaci un attimo, per chi si fosse perso la tua ospitata precedente, come hai ritrovato questi dischi, da dove arriva questa collezione di vinili? Questa è tutta un'eredità, chiamiamola eredità, venga, del babbo e della mamma, nulla in cantina, rimettendo a posto in quella, è uscito fuori questa scatola, ho detto, ma sono nuovo io, ho detto, ma dama, che ne pensi se vuoi mettere un po' di questi pezzi vecchi, diciamo preistorici? No, e rappresentano più che altro. Nella tua trasmissione, e siamo riusciti a farne fino a 3 trasmissioni. Te non lo sai, cioè forse non, fai finta di non rendertene conto, ma hai una finestra in vinile sugli anni 60 italiani. Italiani, però parecchio però sì. Pop, però alla però fine quello sono, è vero. A quei tempi andava quello, infatti più vicino di questo è difficile. Infatti, e già qua sul piatto ho messo un... Ora, quando dirò il titolo, qui l'ho messo sul piatto, sembrerà uno schifosissimo gioco di parole, però è così, è andata, perché il prossimo vinile, il prossimo 45 giri è Fabrizio Ferretti con 2 righe, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat, il vostro sabato sera con il recupero vinilico. Io e un foglio bianco e le solite 2 righe sono solo, torna da me. Nebbia e qualche disco che mi tengo come amici nella casa vuota di te. Io e il tuo ricordo, mentre scrivo le due righe, dove dico torna da me. Ti ama, allora capirai, quando tu avrai queste due righe, le due di un milione che ho scritto solo a te. Forse crederai nelle lacrime che scrivo ed ancora tornerai. Torna da me, se sai che cosa è un uomo solo, un uomo che ti ama, allora capirai, quando tu avrai queste due righe, le due di un milione che ho scritto solo a te. Hai sentito? Non lo conoscevo quest'autore, questo Fabrizio Ferretti, noi lo prendevamo in giro. Invece ha visto che persona su un foglio bianco, però con energia. Davvero, canzone che era allegra nel ritmo ma non nel testo, Da affogare ora. No. Tu mi fai ridere mentre bevo la cassa io. Non ti affogare, dai. E tanto metto sull'altro, voi che ne so. Dove andiamo? Dimmi. Dove vuoi andare? Mi raccontavi, volevo rimettere questo John Paul Young che, se ti ricordi, avevamo messo nella precedente puntata dove eri ospite. Avevamo messo Love is in the Air proprio per dare un buon auspicio per l'estate. E ora guardiamo per l'inverno, che diciamo? Per l'inverno, giustamente, si potrebbe mettere il lato B di questo singolo, che è Won't Let This Feeling Go By. Cioè, visto che è cominciato ora l'inverno, non te la fa passare, non iniziare subito a rinvocare il sole, il caldo, il mare. Lasciaci godere l'inverno. Caro, per chi scia come te. Allora, qui a Radio Wombat ritorna Jean Paul Young. E non fate perdere questa emozione qui a Basement Records. Let this feeling go back. questo era John Paul Young con Won't Let This Feeling Go By. Il prossimo 45 giri della selezione, della collezione qua del nostro ospite, sarà un disco che in parte ci riporterà alle atmosfere latinoamericane tanto care al nostro ospite, nonché l'autore molto caro evidentemente ai tuoi genitori, visto la collezione infinita del babbo di dischi di Claudio Villa, addirittura in doppia e tripla copia. Questo lungo preambolo solo per dire che ora metteremo Messico di Claudio Villa, ma appunto anche avendo qui accanto a me un grande esperto di Latin America, per aprire magari una parentesi visto quello che sta succedendo in questi giorni in quel continente, specialmente ora in questi giorni appunto in Bolivia, l'ennesimo golpe dopo tutto quello che era già successo nelle settimane precedenti in Cile, quello che era successo poi in Venezuela, c'è tanto movimento, sembra, eh? No, c'è, vabbè, ora questa qui è una canzone, per fortuna è allegra come canzone, non c'è tanto, però sì, no, comunque sì, certo, no, si stava parlando appunto con Penapo. Mettiamo questo museo, almeno Le vene aperte in Latino America, un bellissimo libro che è scritto e parla insomma della radice della resistenza latinoamericana dopo quello che è successo in Ecuador, che pare, perlomeno da fonti note, che ha vinto il popolo, ha vinto l'indigeno, che tanto rispetto alla parola indigeno, quello che sta succedendo in Cile, che in Cile è il primato mondiale di occhi persi in manifestazioni di rivolta popolare, insomma abbastanza importante. Quello che sta succedendo in Bolivia, dove un dichiarato colpo di stato gringo, USA come lo vogliamo chiamare, dove si è dovuto dimettere il Evo Morales per cercare di avere meno mattanza tra il suo popolo indigena. Sono cose forti. Però in onore a Latino America e alle vene aperte su Latino America, un libro bellissimo di Galeano, che è bello da leggere. Andiamo con Messico in forma più allegra, però... Sì, no, in contraltare alla tensione del momento, una canzone allegra era così, per aprire una parentesi culturale. Grazie per la pausa, non mi chiedavo più io. Nel delirio, e quindi ascoltiamoci qui Claudio Villa con Messico, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Si canta sempre alla fortuna, si canta sempre al primo amore, ma questa sera al chiaro di luna io voglio cantare al Messico in fior. Di questo magico paese qualcuno un giorno mi parlò, per una notte mi sorrise, mi diede il suo amore e poi mi lasciò in Messico. Mi disse prima di partire, in Messico, se vuoi trovarmi puoi venire. Io le giurai a primavera, tra le tue braccia volerò. È giunta l'ora di volare, il cuore mio non so frenare, ho tanta voglia di cantare. Messico, Messico, Messico, Messico, tra le amapole in fior ritroverà l'amor che mi baciò. Messico, Messico, con lei io resterò, perché lontan da lei d'amore morirei, oh Messico. In avventura messicana, sulle solette Messico, sa dura bene una semene, ma che le semene che crescendo. Le prime soirée se promene, o danso tendre volerò. Qui le desie non se descene, pluriene, bufrene, o paro galò. N'oblido, sulle dosier di Messico, onde vien fu, o son de ritmo tropico. Si vous avez un jour la vene, te pouvoir prendre le vapor. Alle chiute une semaine, l'avventure messicaine au soleil. Messico, Messico, junto soleil qui chante. Chaque jour, Messico, Messico, te permesso un tardante, e tu serai toujours le paradis de cœur e de l'amour. Messico, Messico, Messico, Messico. Sentilo il Claudio Villa, come gliene dava. Che viva Messico, cabrón. Sempre che viva Messico. Grande, voce esemplare dei melodici italiani degli anni 60, Claudio Villa. Su quello non ci può dire nulla. E ora un altro discone, tra l'altro... cover, come usava ai tempi, cover di un grande successo, di un grande successo inglese che ora però mi sfugge, padre, perdonami, cioè, ormai la memoria è quella che è, però in questo caso reinterpretata in italiano da Petula Clark con la collaborazione dell'orchestra di Tony Hatch. E anche questo spunta fuori da questa collezione. Cose rare. Sempre un classicone. Semplici ma rare. Un classicone del pop italiano degli anni 60 qui a Basement Records con Petula Clark. Ciao, ciao. Vi vedo ancora i vecchi amici che ho e mi salutano. Ciao ciao, e sulla spiaggia limpida non è cambiato niente. Sotto il sole caldo io ti cerco tra la gente. So che ci sei, ecco mi hai vista. E tu mi vieni incontro correndo e stai sorridendo. Sai con quanta ansia aspettai di rivedere te. Ciao ciao, ora di te non voglio perdere mai neanche un attimo. Ciao ciao, diventeranno facili i baci dell'estate. Passeremo insieme in forate, ma poi verrà il giorno che partirò alla stazione, verrai la mano tua agiti. Ciao, ciao, io sto per piangere. Ciao, ciao, il treno va in grido. Ciao, ciao, non ti scordare di me. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. alla stazione verrai. La mano tua agiti, ciao, ciao, io sto per piangere, ciao, ciao, il treno vai primo, ciao, ciao, non ti scordare di me, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. E questa era... questa era Petula Clark con Ciao Ciao, riproposizione italiana di un grande successo inglese che voi avrete pensato che io ho cercato nel frattempo mentre andava la canzone, invece col cazzo, perché o mi viene in mente lì per lì o se no non vale, e quindi nel dubbio della curiosità. È un compito che vi lascio per casa a voi amanti di questi quiz musicali o meno. Però la prossima selezione, il prossimo vinile che ho qui in mano, appunto, anche questo l'avevamo già proposto la volta prima, soltanto con Gianni, con la mitica Giovanni il telegrafista, Enzo Iannacci, e invece stavolta vi proporremo il lato A, che è l'ultra classica Venga anch'io un 8-1 del perché? Perché no? Enzo Iannacci, qui è un grande, solo grandi classici stasera della musica italiana. Erano lì sul pezzo a comprare i dischi da classifica, tutti, i tuoi tutti eh? In linea aspettando. Vai Enzo, Basement Records, Radio Wombat. Censo non funziona. Censo che fa le bizze. Ora stiamo cercando. Ora questo è il bello della diretta. Bello della diretta è questo. Non mi era mai capitato un vinile che non suonasse proprio per niente. Però potrei. Si riprova o si cambia? Proviamo da quell'altro lato a vedere se funziona. Si ripropone Giovanni il telegrafista. L'altra volta aveva funzionato. Facciamo questa prova. Questa prova. Dai. Bene, bene. Tra l'altro era bellissima Giovanni il telegrafista. Un po' triste ma super bella. Vamo a vedere che succede. Giovanni funziona. E allora vi beccate di Giovanni, Giovanni telegrafista e nulla più, stazioncina povera, c'erano più alberi, uccelli che persone, ma aveva il cuore urgente anche senza nessuna promozione, battendo su un tasto solo. Piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri. Ellittico da buon telegrafista, tagliando fiori, preposizioni, per accorciar parole, per essere più breve, nella necessità. Conobbe Alba, un'alba poco alba, neppure mattiniera, anzi mulatta, che un giorno fuggì, l'unico giorno in cui fu mattutina, per andare a abitare città grande, piena luci, gioielli. I piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri, storia viva e urgente, inutilità, alfabeto morse in mano, Giovanni telegrafista, cercare Alba, ogni luogo provvisto telegrafo, quando invecchia com'est dolorosa urgenza, Giovanni telegrafista e nulla più urgente. Piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri. Per sue mani passò a mondo che lo rese urgente, crittografico, rapido, cifrato, passò Prezzo Caffè, passò Matrimonio Edoardo, ottavo G-Duca di Windsor, passarono Cavallette Cina, passò Sensazione Prima Bomba Volante, passarono molte cose, ma tra l'altro passò Notizia Matrimonio, Alba con altro. Piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri. Giovanni telegrafista, quello dal cuore urgente, non disse parola, solo tre rondini nere, senza la minima intenzione simbolica, si fermarono sul singhiozzo telegrafico. Alba è urgente. Piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri. E questa era Giovanni telegrafista di Enzo Iannacci, che anche se ve l'avevamo proposta l'altra volta, però mi ricordava qui il buon Nero che non l'avevamo sentita alla fine, perché non si sentiva in una delle mille peripezie qui a Basement Records. C'era stato un qualche evento che non l'aveva fatta, chissà perché non l'aveva fatta sentire, e ora c'è. Volevamo farvi sentire la straclassica Venga Anch'io No Tu No, e invece il destino ha voluto che stavolta ritornasse Giovanni il telegrafista. Ora andiamo su un altro classico, Adesso andiamo su un altro classico, perché l'ho trovato qua nella cassettina portata in dono qua. E sicuramente non penso sarà molto difficile, non ci sia nessuno che non conosca questo. No, tutti la devono conoscere, però l'artista, per forza, cioè Antonello, anche se no, se perlomeno che tu non lo so, tutti lo conoscono. L'ho voluta mettere perché poi io ci sono, ahimè, ci sono cresciuto con Antonello Venditti, perché è l'artista preferito di mia madre, quindi ci sono anche non avendone mai sentita una volontariamente, quando mi capita tipo alla radio girellando di trovare una canzone di Venditti, poi mi accorgo di sapere i testi inconsciamente. Io sono cresciuto con un altro, ve lo giuro inconsciamente, cioè, è normale, però io sono cresciuto con un altro, essendo un'altra generazione, che se abbiamo tempo ve lo mettiamo e guardiamo se riconoscete chi sarà. Ah sì, ma l'hai pure portato, ce l'hai pure dietro? C'ho anche vedo lì, certo, abbiamo già passato un pezzo due volte fa, questo è uno forse più conosciuto, magari la gente capisce dopo me lo fa dopo sentire a tranello. Comunque questo Adelante, è questo è Antonello Venditti con Sotto il segno dei pesci, e ovviamente è sempre qui a Basement Records Radio Wombat. Questo è un complotto, lato. Questo è un complotto, non c'è verso. Che succede all'altra parte? Questo appunto sono le cose fantastiche che possono succedere solo da noi. Allora proviamo con il trucco fatto prima con Enzo Iannacci e guardiamo se il lato B di Antonello va. Io preferivo Nata sotto il segno dei pesci, però guardiamo se il fato vuole. Anzi, perché questa è ancora più conosciuta. È ancora più conosciuta, però a me piaceva più quell'altra. E guardiamo se toccherà a Sara. Cioè, appunto, poi svegliate primavera, ma che cazzo, sta arrivando lì, arrivando l'inverno, svegliate primavera una sera. Questa è la presupposizione dell'ottimismo. No, dal mio punto di vista di pessimismo, ma cazzo, ma impiccati, oh. Guardami che succede. Allora via, complotto davvero, maledetto. E tocca questa. Sara, sono le 7 e tu devi andare a scuola. Oh oh oh, Sara, prendi tutti i libri ed accendi il motorino. E poi a te, ricordati che aspetti un bambino. Sara, se avessi soldi ti porterei ogni giorno al mare. Sara, se avessi tempo ti porterei ogni giorno a far l'amore. Oh, ma Sara, mi devo laureare, ma forse un giorno ti sposerò. Magari in chiesa, come tua madre sta aspettando per poter piangere un po'. Se i vestiti non ti stanno più. Sara, mentre dormivi l'ho sentito respirare. Sara, mentre dormivi ti batteva forte il cuore. Oh, oh, oh, Sara, tu non sei più sola. Nascerà. Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, allora sembra proprio che il destino remi contro di noi, perché qualunque lato selezioniamo evidentemente non va bene. Proviamo a provare a selezionare quello sbagliato. Proviamo con una nuova tecnica, dai. Proviamo con una nuova tecnica. E qui altro grande interprete del pop italiano degli anni 60. Abbiamo un vinile di del buon Tony Sant'Agata. Puoi raccontarci qualcosa di più che i tuoi ricordi? Tony Sant'Agata, mi ricordo le canzoni che ascoltavo in babbo, ma sinceramente su Claudio Villa vi posso raccontare di più, però su Tony Sant'Agata mi rimane la sua vita un po' molto incognita. No, era così, giusto per dire, prendere un po' di tempo e per mettere il disco di vedere sul... se qual è il lato giusto per mettere il disco sul piatto, fare il voodoo e la macumba per farlo funzionare. Quale lato mettiamo? Riprovo quello che vorrei mettere. Vai, venga. Guarda, prima proviamo a farlo partire, poi se parte diciamo dopo cos'è, e se no tergiversiamo. Comincia a chiacchierare io, bravo, e te cambi lato. Bravo, vai, bravo. Surprise. Comunque siamo sempre qui, non so se lo sapete, ma siamo sempre su qui. Radio Womba. Esatto, come hai fatto a indovinarlo? No, perché è una certezza. Ci siamo? Siamo pronti? Vai! Oh. Bene! Che si mangia la zita, che si mangia la zita, che si mangia la zita alle tre sere. Che si mangia la zita alle tre sere. E tre pesci che vanno nuotando e due lepre ben correnti. Nuva nera de Bergaland, nuva nera de Bergaland, nuva nera de Bergaland, sembra la zita la dava la nanza. Nuva nera de Bergaland, sembra la zita la dava la nanza. Che si mangia la zita, che si mangia la zita, che si mangia la zita alle cinque sera. Che si mangia la zita alle cinque sera. Cinque piatti di maccherone, lì braciole e cannellone, quattro colombe che vanno volando, con tre pesci che vanno nuotando, e due lepre ben correnti, nuva nera di bere galante, nuva nera di bere galante, sembra la zita la tavola nanza. Nuva nera di bere galante, sembra la zita la tavola nanza. Che si mangia la zita, che si mangia la zita, che si mangia la zita alle sette sera. Che si mangia la zita alle sette sera. Sette vacche ben cresciute con sei pecore arrosto, cinque piatti maccherone, lì braciole e cannello, quattro colombe che vanno volando, con tre pesci che vanno nuotando, e due lepre ben correnti, nuva nera di bere galante, nuva nera di bere galante, sempre la zita la tavola nanza. Nuva nera di bere galante, sempre la zita la tavola. Che si mangia la zita, che si mangia la zita, che si mangia la zita alle 16 sera. Che si mangia la zita alle 16 sera. 16 kg di salsicce se le mangia secche secche, 15 kg di vermicelle, questa la veste lo senariel, 14 kg di insalata ma lasciata senza piede, 13 kg di confezzo, stringe la zita e non aspetta, 12 kg di albicocche se riempie quattro po', 11 kg di fiche secche se li mangia se li lec, 10 rotola di cerasa, chi se la frazza e chi se la va, 9 botte di vino, nulla basta una candina, 8 fornare di pene, non si porta salsi e 7 vacche ben cresciute, busse pecora rastu, 5 piatti maccherone, lì braciole e cannellone, 4 colombe che vanno volando, con 3 pesci che vanno a natare, e 2 lepre ben correnti, non vanno da bere calante, non vanno da bere calante, se prendi da tavola. Spiegazione. 16 kg di salsicce se le mangia secche e secche, 15 kg di vermicelli, questa la veste e l'usonariel, 14 kg di insalata e mal lasciata senza pie, 13 kg di confetti, prende la zitta e non aspetta, 12 kg di albicocca, si riempie quattro bocche, 11 kg di fichi secchi se li mangia se li lecca, 10 rotola di cerasa, chi se la braccia e chi se la veste, 9 botte di vino, nulla basta una cammina, 8 fornerate bene, non si porta sazia, 7 vacche ben cresciute, tusse e pecora rostù, 5 piatti di maccherone, lì braciole e cannellone, 4 colombe che vanno a volare, 4 pesci che vanno a natare, e 2 lepre ben correnti, nuva nera di bere calante, nuva nera di bere calante, sembra di la volana. No, capolavoro, cioè questo capolavoro davvero ha funzionato, questa era la zita di Tony Sant'Agata e... assolutamente preso dall'entusiasmo, io ti scongiuro di farmi girare il lato e di farmi sentire anche il lato B di Tony Sant'Agata, perché cioè, dopo questa zita io mi voglio sentire assolutamente anche il lato B, perché voi magari pensate che noi ci ascoltiamo prima i dischi, no, cioè, essendo ritrovamenti così, e poi insomma sono questo cassetto che ha portato qua il nostro ospite, cioè ne contiene veramente tante, perché sono anche tantissimi con solo il vinile messo lì, e sono tanti, e abbiamo fatto una selezione così, perché tanto erano tutti grandi nomi, ma questo di Tony Sant'Agata era veramente una sorpresa. E vedo dal centrino del lato B che anche il prossimo probabilmente sarà un brano dialettale, perché è l'Umaritiel. Allora adelantami l'elefante. No, lo voglio sentire come l'elefante, sperando che funzioni visto i precedenti, Scopriamolo in diretta qui sempre su Radio Wombat a Basement Records. Te lo ricordavi? Cosa? Radio Wombat? Sentiamo se c'è l'Umaritiel di Tony Sant'Agata. Vai. È arrivata anche questa. E vai, funziona tutti. Pace non voglio fare, sono a diretta, se prima non mi dici dove hai stato. Io vado a lavorare, trasporto vino, lo beve e lo trasporto qui dentro di me. Vino, vino, eccolo qua, vino, vino e tira il caffè, vorrei coprire la tua bocca di baci, di baci, di baci, per dirti quanto mi piaci e poi tenerti sul cuore. Non vedo l'ora che viene Natale, per farmi una magnetta di macaruna, mi scorda le guai e li cambiela, mi faccio una bevuta e tira a campa. Vino, vino, eccolo qua, vino, vino e tira a campa, vorrei coprire la tua bocca. Sei più bella di una rosa di maggio, l'occhio che tiene un fronte so come l'umare, oppure bene a te ci vuole coraggio, gli spara pacchi e muore d'amore per te. Lena, mia cara Lena, ti voglio bene, ti voglio a me, vorrei coprire la tua bocca di baci, di baci, di baci, per dirti quanto. Facendo. Stai prendendo la scopa, Lena! Vorrei aprire la bocca, ti baci, ti baci, ti baci, per dirti quanto mi piaci e poi tenerti sul cuore. Preciso, guarda, tu sei tornato. Ha fatto un capolavoro. Capito, grazie. Un capolavoro, cioè sei proprio sincronizzato. Cioè, come hai fatto? In testa. Come ha fatto? Non si sa. Comunque questo è l'Umaritiel di Tony Sant'Agata. Sai, anche questo proprio ancora più old school, proprio, sì? Proprio festa paesana, fisarmonica e banda al seguito. Una gran sorpresa. Bah, tra l'altro notavo, guarda l'etichetta. Carosello. Etichetta Carosello. Capito. E dopo il Carosello si va a letto. Tutti a letto. Si va a letto. Ma volevamo mettere ora, visto che io, che me medesimo, qui me medesimo avevo rimembrato le canzoni che conosco il testo senza averle mai ascoltate consapevolmente. Mi dicevi appunto che c'è anche qui insieme a noi il tuo artista, e raccontami un po'. Allora, racconto che è un artista che ho ascoltato tramite influenze esterne. Tramite influencer o influenze? Influenceriste. Ancora non c'erano gli influencer ai tempi. Ancora c'erano influencer, diciamo influencer. C'era l'influenza. L'influenza, i vaccini ce n'era meno. Forse si ammalava meno. Latte e cognac. Cognac c'è ancora problemi. La mattina ti andava a lavorare per forza. Però vabbè, non facciamo una cosa contro, una cosa troppo politica contro tutti i farmaceutici, non vi vaccinate. Però eccolo. Però l'impestato. Però a quei tempi le influenze si curavano con un po' di latte card e cognac che ha letto sotto le coperte, e l'influencer esterne mi hanno portato a sentire quest'artista. Diciamo, io do artista. Soltanto un indizio che l'avevamo già sentito qua su, sono un po' frequenze. Un sorcino, poi ascoltando i testi e la voce capirete di chi si parla. Anche se Galeotto fu il canotto, rimarrà per, è rimasta nel cuore veramente per tutta l'estate. Quella... Questa è un grande classico, però Galeotto però fu il canotto. La prendeva proprio di tacco. Che meraviglia, veramente. E qui a Basement Records torna per i sorcini Renatone, Renato Zero con Il Triangolo, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat, solo vinile. Eccolo, funzionerà? Strana, il pretesto lo sai, quattro dischi, un po' di whisky, sarò grande, vedrai, fammi spazio e dopo mi dirai, che maschio sei, lui chi è, come mai l'hai portato con te, il suo ruolo mi spieghi qual è. Io volevo incontrarti da sola, semmai. Mentre lui, lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? Già è difficile farlo con te, mollalo! Lui chi è? Aspettavo, lo sai, un rapporto un po' più normale, quale eventualità, trovarmi una collocazione, ora spiegami dai, l'atteggiamento che dovrò adottare, mentre io rischierei di trovarmi al buio fra le braccia lui. Non è il mio tipo. Lui chi è? Si potrebbe vedere. Si potrebbe inventare. Si potrebbe rubare. Mollalo! Il triangolo no, geometria non è un reato, garantisci per lui, per questo amore un particolato. Mentre io rischierei, ma il triangolo io lo sentilo Renato, ti è ritornato brividi? Ragazzi, la mia gioventù le sta, ella, mi garba. Caro il mio sorcino, però mi sembra che siamo diventati un po' troppo seri, andiamo. Quindi... a parte questo, il bello appunto di questi ritrovamenti familiari è che appunto in mezzo a tutti questi dischi puoi trovare anche rarità o cose strambe, tipo il disco che ho selezionato per te della collezione che mi hai portato, e a sorpresa ti metterò. Che mi metterai? Questo l'hai scelto da solo? Questo l'ho scelto da solo così per spiazzarti, perché cioè quando l'ho visto non potevo non metterlo in basement, cioè per forza. E stiamo parlando di canzoncine per bambini. Mi capisci, giustamente, andava messo per forza. In questo caso l'interprete è niente po' di meno che Dario e i Sanremini. Capito? Cioè, come facevi a non metterlo? Cioè, Dario e i Sanremini. Cioè, questo è fantastico. Anche questo sarà un vinile di almeno, cioè, penso metà anni 60. E ci sono dei disegni di fumetti alquanto improbabili sopra il centrino. E visto che sono i Sanremini, io credo che siano il coro delle voci bianche di Sanremo del tempo, forse, non lo so, Sto dicendo, sono cose che mi passano per la mente a me in questo momento, però questo brano di Dario e Sanremini è niente proprio di meno che Ricordate Marcellino. Pane e vino? Non so se è pane e vino, lo scopriremo molto presto. Potevo non metterlo? Assolutamente no. Ovviamente sempre qui a Basement Records, Radio Wombat, con Dario e i Sanremini. Andiamo, viva Marcellino. Dai Marcellino! In questo mondo tanto grande, noi siamo tutti dei piccini, dagli Appennini alle Ande, da San Francisco a Pechino. Ce lo dimostra un raccontino di un bel bambino che è un tesor, Marcellino, pane e vino che racchiudo qui nel cuor. Quel piccolo trovatello è stato deposto un dì sulla porta del convento per ripeterci così: ricordate Marcellino, solo pane, solo vino e un minuscolo lettino. Marcellino, Marcellino. La la la la. se noi giochiamo a far gli affari con sottrazione ed addizione, noi non vediamo che i denari, sogniamo solo i milioni, dimentichiamo le cose belle e quindi nascono dei guai. Marcellino pane e vino non l'avrebbe fatto mai. I 12 fraticelli che l'hanno trovato un dì sulla porta del convento ci ripetono così: ricordate Marcellino, solo pane, solo vino e un minuscolo lettino. Marcellino, Marcellin, se noi giochiamo a far la guerra dal polo nord all'equator, noi rattristiamo cielo e terra con gran fragori e baglior del fiar di luna e delle stelle, dei prati in fior ti scorderai. Marcellino pane e vino non l'avrebbe fatto mai. I 12 fraticelli che l'hanno ospitato un dì tra le mura del convento ci ripetono così: ricordate Marcellino, solo pane, solo vino e un minuscolo lettino. Marcellino, Marcellin, ricordate Marcellino, solo pane, solo vino e un minuscolo lettino. Marcellino, Marcellin. No, allora si diceva, io vorrei sapere quant'era Briaco Marcellino, perché l'avrei voluto veramente conoscere sto bambino, perché a campa solo pane e solo vino va bene che il pane assorbe, però insomma bambino allegro, bambino felice, dice sta accontentato di pane e vino, lascia fare. No, cioè, lascia stare davvero grande Marcellino. Però ora, al di là di questo, che non potevo esimermi da farvelo ascoltare, secondo me ne valsa assolutamente la pena. Tra l'altro, dicevamo mentre l'ascoltavamo, brano anche politico, per essere un brano dei Sanremini, se fate caso al testo. No ai soldi, no alla polizia, è interessante. Capito. Però, insomma, anche pane e vino, insomma. Capito Sanremini, San doppio filo. Capito Sanremini, Poi adesso qua, al di là di Marcellino, per continuare sulla strada del grande pop italiano degli anni 60, abbiamo uno storico componente del clan del molleggiato, e nel caso qua abbiamo uno dei più grandi, appunto, l'altro grande del clan di Celentano, abbiamo il buon Don Bachi. In questo caso, in questo vinile, accompagnato dalla R&B band, addirittura, che solitamente R&B vuol dire rhythm and blues. Infatti volevo appunto sentire, investigare Don Bachi che suona con una presunta rhythm and blues band. E in effetti il titolo è fuorviante, perché è Boom Boom Boom, che è un grande classico di John Lee Hooker. E sentiamo se è una cover. Sarà? La proviamo? Sarà una rhythm and blues band davvero insieme a Don Bachi? Secondo me potrebbe. Potrebbe regalarci delle sorprese. Anche se è Don, e non pensare a quelle sorprese, visto che no. È Don. Dove siamo? Radio Wombat. Nello specifico? A Basement Records. Madonna, io ti do le lezioni da studiare a casa, ma allora ti farò cartelli. Piano. Eccoci. Non funziona. Aspetta. Crediamoci, tergiversa mentre io allora, faccio un trick. Che, diciamo che c'è questo lato da suona vuoto. Comunque noi siamo a Radio Wombat, Basement Record, con pena fo. Sempre con pena fo, qui il nero che ci ospita. Proviamo a far ripartire questo boom boom boom, magari con... Se no ci toccherà mettere l'altro lato. Sì, proviamo a questo punto. Però vorrei provare in questo caso la tecnica della sfregatina, come sai quando la lampada da Aladino. Fai, mettilo in maniera nascosta, che almeno la puntina non vede, e metti. Proviamo. Guardiamo se ora va. La diretta c'ha sempre le sue belle cose. Vai appena poco. Col cazzo. Nulla, nulla. Sa provare a cambiare il lato? Stasera è la sera dell'ATB. È qualcosa di sarcastico, perché sto super strano. Che cosa dice che qui in questo caso è sempre accompagnato da questa fantomatica R&B band, però in questo caso il titolo era molto meno allettante, infatti si tratterebbe il condizionale d'obbligo visto la serata, si tratterebbe di poesia. Ah, orale! Sentiamo... E a sorpresa non funziona. No, ma è più normale così, cioè se un lato non funziona non dovrebbe funzionare neanche l'altro. Don Bachi ci ha salutato, però ora io non me l'ero preparata apposta, però qua tra i vinili che mi hai messo a disposizione anzi, praticamente con lo stesso centrino, visto che è sempre uscito per l'etichetta del clan di Celentano, in questo caso abbiamo proprio, direi, Sant'Ercole e i Ribelli e Celentano e i Ribelli, da un lato... E nell'altro c'è Celentano con i Ribelli e Don Bachi con i Fuggiaschi. Immaginati te che banda è. Con i Ribelli. E tra l'altro devo ricordare che tra i Ribelli, per un periodo, nel loro periodo di massimo splendore, c'era niente po' di meno che un giovanissimo Demetrio Stratos, che poi finirà negli Area e farà la storia appunto nella sperimentazione della voce, però questo è tutto un altro discorso. Questo è tutto un altro discorso. E a questo punto io direi di provare con Chi ce l'ha con me di Celentano e i Ribelli. Sicuramente oggi con te ce l'ha la puntina. Ma ecco, no, sai come si dice, no? la colpa sta sempre più in alto. Chi sta più in alto della puntina, chi sta più in alto di Radio Wombat, ora te lo dico. E se... No! Vai. E allora, Celentano... No, che le avevo? No, allora ce l'hanno i Ribelli, che è Maria Mare? C'è. Chi ce l'ha? Vai! Neri, quanti volti scuri, quanti occhi che si accendono su me, ma chi ce l'ha con me? Chi ce l'ha con me? Chi ce l'ha con te? Chi ce l'ha con me? Chi ce l'ha con te? Ora dite cosa ho fatto, non dovete far così. Voi sapete, a questo mondo non si può dir sempre sì. Ma chi ce l'ha con me? Yeah, yeah. Chi ce l'ha con me? Yeah, yeah. Chi ce l'ha con me? Yeah, yeah. Chi ce l'ha con me? Chi ce l'ha con me? Chi ce l'ha con te? Chi ce l'ha con me? Chi ce l'ha con te? Se forse nel passato qualche volta io sbagliai, non potete giudicarmi, chi di voi non sbaglia mai. Ma chi ce l'ha con me? Yeah, yeah. Chi ce l'ha con me? Yeah, yeah. Chi ce l'ha con me? Yeah, yeah. Chi ce l'ha con me. Chi ce l'ha con me? Chi ce l'ha con te? Chi ce l'ha con me? Chi ce l'ha con me? Nella casualità abbiamo trovato un pezzone della Madonna, perché era bellissimo questo pezzo di Celentano con i Ribelli, favoloso veramente. Però a questo punto, visto che il tempo è dalla nostra parte, direi, io vorrei riprovare con Don Bachi, perché veramente no, non mi è andata giù. E mi voglio sentire questa boom boom boom. E allora, se Adriano, che era il capo del clan, ha funzionato, a questo punto deve funzionare per forza anche il suo luogotenente, no? Non c'è verso che no. E che cazzo, vai Dagnene, vai Don Bahi. Che c'ha Bahi? Ma senti sti infame, oh. Ora funziona? Funziona? Allora, no, si sente bassissimo, però già meglio di prima, eh. Lo senti, si sente in sottofondo? Appena. Lo lasciamo? Ma lasciamolo mentre si chiacchiera così. Cioè, giusto per dire che c'è, no? Non serve a riprendere, faccia un volume più alto. Comunque qualcosa c'è, chi ce l'ha con te? No, chi ce l'ha con me, appunto, si diceva prima, un paio di idee ce l'ho, però evidentemente il capo del clan doveva funzionare, il luogotenente no. Ha detto ti permetto un pochino ma non troppo. Sì, infatti no, vabbè. Si sente così, eh. Anche, ecco, se aumento il master a dei livelli. Poi un po' molesti. Vabbè, sentite, bravai così a questi livelli qua. Sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Pago un bel mille e poi scendo dall'auto, vicino a un cartello. Io sono passato col verde, io sono a 3000 che non saprò mai la fine che fai. Yeah. alla fine ce l'abbiamo fatta a sentirci questo Don Bachi, anche se perso dei meandri di chissà dove e combuttato tutti i livelli al massimo, però alla fine ce l'ho fatta nel mio intento. E quindi mi sembra che siamo giunti al momento dei tuoi primi vinili ritrovati nel ritrovamento dei vinili dei tuoi genitori, quindi cioè sarebbe un basement al quadrato praticamente, sì, cioè una cosa meravigliosa. E in questo caso abbiamo trovato dei tuoi vinili fluorescenti, sì. E partirei con il primo fluorescente, che è il fluorescente giallo degli Erasermen con Everything Twice Its Size. Ti ricordi qualcosa di questo disco? Che era un gran chiasso. Ma non ti ricordi dove l'hai comprato? Come no, ti è arrivato a te? Veramente in qualche concerto, in qualche follia notturna. C'era giovani. Ah, quindi no, non te lo ricordi. Era una domanda cioè, inutile, ovviamente. C'era giovani. E sentiamo cosa hai comprato. Sì, magari è una compilation di Rutti. No, penso no. È una follia importante, quella sicuramente me la ricordo. Però ora è il momento esatto. Allora, Eraser Man, per la follia importante. Vinile fluorescente giallo, quindi insomma. Si dovrebbe cadere in piedi, chiasso a manetta. Yo, Basement Records, Radio Wombat, si fa il chiasso. Funzionerà? Sembra di no. E invece sì. Vai. Pompetta. Turn back, look around, and see over the years to see. belli questi Razorman, guarda. Stavamo appunto parlando durante l'ascolto. Veramente mi hai stupito, belli sperimentali. Dopo aver fatto una puntata intera di pop italiano anni 60, veramente tanta roba, bravo, c'avevi dei bei gusti da giovane, peccato poi ti sei sciupato. Posso passare alla cumbia, però vabbè. Peccato poi ti sei sciupato, però va bene. E qua, tra le mani, ho quest'altro sicuramente tuo vinile finito nella collezione dei tuoi genitori, vinile anonimo, però di questa Mort Hate Records, che il logo sul disco il logo sul lato B è fantastico, perché è una chiave inglese incrociata evidentemente con un Kalashnikov. E quindi direi di sentire proprio il lato, visto che sono anonimi entrambi i lati, ma c'è solo il nome dell'etichetta Mort Hate Records. Direi di sentirci al punto il lato del Kalashnikov incrociato con la chiave inglese. Se te lo permette. Ma cos'è? Te lo permette. Cioè, no, quello, cioè, sempre, quello a prescindere, ma che era un disco di Autonomia Operaia? No, perché no. nome troppo straniero, però no, penso no. Sentiamocelo questo Mort Hate Records. Dai, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat, eh? Sempre si sentirà? Si sentirà o no? Sempre si parla di dischi di più di 20 anni fa, perché adelante. Sì, direi che anche questo c'è qualcosa sotto, però effettivamente non si sente una mazza. E proviamo il lato, quello invece l'altro, con il Mort Hate Records, senza Kalashnikov e chiave inglese. Forse perché un po' di questi momenti. Vediamo che dice di là. Dammi che dice di hae. Comunque c'è sta puntina oggi e c'è contro. Ecco, qui già fatto già un segno di vita. Vediamo se da. Ce l'ha con noi, dai. Ce l'ha con l'olio. Bene, allora era destino, allora, visto che era. Visto anche, sapevi il titolo, visto che era anche anonimo come disco, però ci ispirava. Però Mort Hate Records, noi ci abbiamo provato, però il fatto è stato contro di voi, contro di noi. Ci tocca andare fluorescente. Contro il sistema, contro il cane del demonio, per non dire qualcos'altro. Però va bene. Proviamo con il vinile azzurro. No, il vinile blu funziona sicuramente. E questi sono i Rhythm Collision. Ti ricordi il concerto dei Rhythm Collision di quando hai comprato questo disco? Per forza. Col cazzo che te lo ricordi. Ma che cazzo ti ricordi? Ti piacerebbe ricordartelo. Però californiani ti posso svelare. E direi che a questo punto ci andiamo ad ascoltare Far Away dei Rhythm Collision, ammesso e non concesso che funzioni, che la puntina sia contenta. Io penso questa Luigi Garba, perché lei Garba valori vivi. Momento di suspense. Vai, ho gli accendini. Suona. Vai! E suona! Whoa! gli piace il vinile trasparente, via, c'è poco da fare. Però belli anche questi, molto più classici come punk rispetto agli Erasermen, però notevoli anche questi. E come si dice, a questo punto giunti, siamo giunti all'acqua pesci punti, acqua fino a coglione e pesci punti, sei giunti. Infatti acqua come il giorno di Gastigo, acqua a catinelle. E vabbè, quindi abbiamo scelto per voi dalla selezione classicone. Un classicone per appunto per chiudere la puntata e per rimembrare il periodo in cui siamo. Però prima appunto di mettere, vabbè dai, mettiamo mettiamo prima questo disco per chiudere e poi faremo i saluti finali, che ne pensi? Almeno le cazzate più grosse ce le teniamo alla fine. Vai, perfetto, magari si dibattano. Chi? Noi o le cazzate? E questo è Johnny Morandi con Scende la pioggia. Spero, ma te l'ha regalato l'ultima volta sei andata a cena da lui? Chi, Gianni? Sì, quando eri a cena da Gianni. No, quando è a cena da Gianni è un problema andare a mangiare. Però si vede. Dai, Johnny! Vai! Funzionerà? Sentiamo? Impressionante. Vai! Funziona, sente... Qui fuori dai tuoi sogni l'amore sta morendo, ognuno pensa solo a se stesso. Scende la pioggia, ma che fa? Crolla il mondo addosso a me, per amore sto morendo. Amo la vita più che mai, appartiene solo a me, voglio viverla per questo. E basta con i sogni, ora sei tu che dormi. Quel che imparo adesso, ognuno pensa solo a se stesso. Questo non poteva che essere il disco di chiusura di stasera con Scende la pioggia di Johnny Morandi. E prima di salutarvi e lasciarvi al vostro sabato sera, vi ricordo i prossimi appuntamenti con le dirette di Radio Wombat. Domani, domenica pomeriggio, ritorna La Fuga del Gatto con appunto la musica classica qua su Radio Wombat, in ripresa dal veramente estremo sabato sera di appunto di questo sabato sera, che vi ricordo Ora non vi voglio dare anticipazioni, perché tanto se siete gente informata avrete già consultato la punta.org per sapere cosa c'è in giro stasera, quindi non avrete bisogno dei miei consigli, e se avrete scelto il posto giusto non perché ci andiamo noi, ma perché è il giusto posto da andare, ci vedremo stasera, perché chiudiamo qua da Wombat e ci fionderemo lì correndo, correndo, traffico permettendo, alla bicicletta, bicicletta sempre la meglio, come dice anche perché correre è lunga, come, però, come dicono i nostri amici di in punta di pedali, meglio la bicicletta sicuramente per il traffico che c'è a Firenze. Ma non tergiversiamo, buon sabato sera e un saluto qui da appena poco e da Nero, che ringrazio per aver riportato i suoi vinili qua in regia Radio Wombat. Grazie a voi, e tornerò con sorprese insieme appena poco. Per forza, non ve ne siete liberate ancora così facilmente. No, perlomeno fino al prossimo estate nulla. Buon sabato sera a tutti e viva Radio Wombat! Ballate! Ballate, diahane!